si balla. Arriva il suono più travolgente dell'estate, il nuovo fantastico tour del Festival Bar Italia. Le hit italiane come non le avete mai ballate e cantate prima d'ora. Dance performer, vanni DJ, effetti scenici, LED wall, l'animazione delle ragazze italiane, la voce di Paolo Stefanelli. E da quest'anno doppia emozione, doppio divertimento. Nostalgia Canaglia, uno spettacolo coinvolgente, entusiasmante, adrenalinico. La musica 70, 80, 90, tutta in una notte. Per averci nella tua città, chiama il 347 21 39 848. Festival Bar Italia e Nostalgia Canaglia. Cavalca l'onda del divertimento. Hosted by Radio System. È una produzione Luxurious Eventi.